se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Sono il signor Wolf. Risolvo problemi. Ah, bene, ne abbiamo uno. I can't get these memories out of my mind. And some kind of madness has started to evolve. È stato un episodio grave, un pugno nello stomaco, per il quale ho chiesto alla struttura dell'ASL l'avvio del procedimento di licenziamento ai responsabili. Mi pare inevitabile. But some kind of madness is swallowing me whole. Non è giusto licenziare questi operatori che poi hanno salvato delle vite alla fin fine. Non è che hanno fatto o a terra, o sulle barrelle, sulle scrivanie. Purtroppo loro hanno fatto il loro dovere. Io penso che la Regione Campania dovrebbe dare più materiale, cioè se mancano le barelle vuol dire che non ci sono stati mai soldi per dare le barelle, per dare lettini, per dare posti letto. Hanno fatto bene, perché chi era cacciato fuori in amuri propri. Non ci stava posto, non ci stava una lettera, non l'appoggiata a terra, che fa? Secondo me sbaglia da lui. Mamma mia, è tutto un fiorire su questo caso di Nola, dove c'erano le barelle. Allora, chiariamo una cosa intanto, barelle a una R, no, non sono le barelle, ma sono le barelle. Allora, effettivamente, ma De Luca in questo caso, caro De Luca, che ti metto sempre in onda, così un giorno si sa che condurrò, farò il ventriloquo e condurrà Vincenzo De Luca a 24 mattino, soprattutto nella parte del Parlamento. Utilizzeremo tutti gli spezzoni di De Luca per fare condurre lui, così io posso stare tranquillo a casa. Improbabile. E invece chi lo sa, chi lo sa, invece capiterà. Però in questo caso, caro De Luca, lasciatelo dire, hai toppato, come diceva Ezio Greggio. Era Ezio Greggio, hai toppato. Che tristezza. Un po' sì, che tristezza, però. Cioè, ma se mancano i posti letto e arrivano già un'ondata di persone che stanno male, ma che devono fare in un ospedale in cui mancano le barrelle? Pura cialtroneria. No, non è pura cialtroneria. Io capisco, però. Che lei, che vos sia, che tu, non lo so, ormai siamo un po' in confidenza, possa tuonare dicendo licenziamo tutti, cioè, però, capisci? Babbarie, queste sono babbarie. Beh, diciamo, non proprio. La prima una B sola, sì, la seconda con due B. Con due B, come barelle con una R, però non è che sono poi cose così poco gravi, caro presidente De Luca, vos sia. Riconoscerà l'importanza che questi medici insomma hanno dovuto lavorare in condizioni un po' precarie, ecco, difficili. Se arrivano i malati, che fanno? Li cacciano, li fanno aggravare? No, li curano in qualche modo, anche mettendoli per terra, caro presidente, no? Ma vabbè, secondo me hai toppato stavolta, improbabile. È improbabile. E vabbè, cari signori, questo è 24 mattino, sono le 6:34, siamo qui, questo 2017 ormai inoltrato, c'è umido e aria di neve a Milano. Ieri sono caduti 4 fiocchettini, li ho contati, 4 fiocchettini, 2 sulla testa di Peter Bescapè, 1 sulla testa di Lorenzo Nespoli e 1 per terra. Oh, ma voi state bene con la testa o no? Siamo qui, diciamo, ecco, siamo qui. Cara Paola Sanuzzi! Basta, come solita radio. Buongiorno, comandante Alino, buongiorno! Ti piace questa cosa, come io e Mina e Celentano, questa famosa canzone del dialogo, io e De Luca, è bello, mi piace! È bellissimo, e devo dire, no, adesso da parte l'idea del ventriloquo, che non potrebbe mai essere ma dai, neanche pensata, però è bella, è una copartecipazione non partecipata. Ma certo, una trasmissione, invece vorrei proprio il Parlamento condotto da Vincenzo De Luca, così mettiamo Patchwork e tutti i suoi spezzoni e guardate che viene una cosa meravigliosa. Comunque, questa è un'idea che dovrei realizzare. In ogni caso, sì, la questione c'è sull'ospedale di Nola e c'è la gente che dice che cosa avrebbero dovuto fare. Ma è chiaro, ma è ovvio. Ma ieri la Lorenzina proprio intervistata ai miei microfoni, anzi, microfoni 24, sì, ma eravamo in onda proprio al mattino con Dentro i Fatti, ha detto sono stati dei medici eroici. Ma guarda, io perché hanno fatto quello che potevano con quello che avevano. Ma sono abbastanza d'accordo. Dargli di più, ma certo, quello che gli spetta. Ma infatti la questione è, non è che se che non fa bene vedere le persone stese per terra. È evidente. Questo non piace. Però anch'io definisco essere eroici, non lo so, però questi medici hanno fatto quello che dovevano fare, hanno curato delle persone. In tutto questo la nostra Paola Saluzzi, siamo a casa di Paola, sempre ci scrive grande Paola e spero anche Dini, e ogni volta lo speriamo anche noi quando lo chi è che c'è? Pinguino. Ci sono, ci sono. Ecco il pinguino. Mitico. Il pinguino. Ecco grande. Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Oh, buon 2017 a entrambi, ovviamente. Buon 2017 a tutti. Beh, il più grande amico di Vincenzo De Luca, Luca Dini, e la copertina di Vanity Fair questo mercoledì è stata in ballottaggio tra Michael Fassbender o Michael? Michael, vedi? Io avrei detto Michael alla tedesca, ma d'altronde Fassbender sembra tedesco. Beh, in effetti è tedesco, però è nato in Irlanda. Quindi... Ah, Michael Fassbender oppure Vincenzo De Luca? Stavi pensando chi è più sexy da esatto. mettere in beh, la voce non ho dubbi. Sulla voce non ho dubbi, effettivamente. Sulla voce vincerebbe De Luca a mani basse. Però voglio dire che può fare al massimo la tua spalla, De Luca. Ecco. No, io De Luca. Guarda improbabile. Se questo è improbabile, ha già rotto le scatole, caro Peter. Te lo dico, variamo un po', che De Luca regala. Ma la domanda è, dove si trova il nostro super mega dir? Perché uno dice pinguino, perché lui ogni tanto... Non lo so, forse nella volgare Milano? Nella volgare Milano tra i 4 fiocchetti di neve. Ecco, esatto, nella volgare Milano. Allora, apriamo subito il Parlamento perché la notizia... Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... La notizia con cui aprono praticamente tutti i giornali, ragazzi, proprio classicone all'italiana. Tutti spiati. Ci sono proprio gli elementi da commedia. In realtà è una cosa molto seria. Hanno beccato 2 fratelli, uno dei quali iscritto alla massoneria, si chiamano Occhio Nero entrambi essendo fratelli, e li hanno accusati di avere raccolto un dossier per 4 anni in cui spiavano tutti: Renzi, Draghi, Cicchitto, poi Capezzone. Ecco, io su Capezzone ho avuto un attimo di brivido, ho detto qui c'è qualcosa che non lo so. Luca Dini, Capezzone tra gli spiati. Che noia, dai. No, vabbè. Mario Monti, i comandanti della Guardia di Finanza, e poi anche enti istituzionali, l'ENAV, hanno beccato questo dossieraggio di spioni, presunti spioni. Cara Paola, ma è proprio il classico dell'Italia, no? Tutti spiati. Tutti spiati, nessuno spiato. No, invece ovviamente è una cosa grave alla quale prestare attenzione, anche andando un po' a studiare le come dire, le caratteristiche di questi due fratelli, no? Sì. Il concetto è, ma perché? Perché? Perché, domanda, perché lo facevano per qualcuno, evidentemente, non è che lo facevano per divertimento. Non è che lo facessero così per divertirsi, per fare loro il gioco del loco Monopoli, è capire perché e per chi. No, tra l'altro che la sicurezza nazionale sia a rischio, ragazzi, cioè Renzi pare per mesi spiato, Draghi, Monti e varie società, società di livello, no, mica società piccoline, insomma, ci sono pista sui contatti americani, pare che questi fratelli fossero molto... molto addentro anche... Insomma, tra virgolette, cosa grave, ecco, questo è il... Cosa grave. Giustamente poi Iena sulla stampa dice: Gentiloni è caduto in depressione, ha scoperto che non lo spiavano. Il premier Luca Dini. Perché poi c'è anche adesso c'è questa lista, Cioè, se sei importante vieni spiato. Cioè, Capezzone oggi andrà in giro con il petto un po' in fuori a dire: vedete io? Invece Gentiloni no. Non lo so, è tutto poco chiaro, caro Luca, tu che idea ti puoi... Ma non so, io in queste cose qua forse sbaglio, ma ho sempre la sensazione di qualcuno che vuole millantare delle cose che poi non servono a nessuno. Cioè ho più la sensazione di dei maneggioni che volevano appunto millantare di avere a disposizione delle informazioni di chissà quale tipo. Cioè, mi sembra proprio la classica, un po' così, la sensazione che ho è della classica cialtronata. Il cardinal Ravasi, no, per scoprire. Cioè, già uno ha capito che sta nella massoneria, cioè mi sembra si chiama Occhio Nero, e vabbè. Un po' sfigato, se posso dire. Cari signori della massoneria, prendete nota. Voglio dire, mi sembra una persona che ha capito. Che no, va bene. Vuole chissà. No, però io dico, l'account da hackerare è Sono Luca Dini, l'account Twitter, ci saranno dei segreti terribili. Auguri, guarda. Saranno dei segreti terribili su come si sceglie la prima pagina, la copertina di Vanity Fair, e comunque quello è l'account Twitter da hackerare. Va bene, il nostro Enrico da Loreto ci scrive che io mi farei spiare soltanto dalla Rossa. No, non ho capito la portata di questo messaggio. Capisco. Ma... Anzi, non capisco, andiamo avanti. Non capisco, andiamo avanti. Va bene, no, è da qualche giorno però che insiste anche oggi Repubblica sulla questione degli imboscati in Italia. Guardate, questa invece è una cosa veramente che mi fa arrabbiare. Allora, oggi ci si concentra sui vigili di Roma, cara Paola, Roma. Tu che quando passi e vedi un vigile urbano e magari strombazzi perché dice fammi passare, perché si sa che al volante sei un po' così, no? Sei una che... Come fai a saperlo? Ma una volta l'hai fatto anche in diretta da noi, ma poi una volta... Sei una di quelle proprio sprintose che fammi passare, dai, spostati! Si capisce benissimo. Vieni a guidare a Roma per i primi sei mesi, sei un signorino, poi al sei mesi un giorno Sandokan, perché insomma... Si capisce benissimo. Quando tu passando dici anche, insomma, vigile, mi faccia passare, magari anche qualcosa di più, pensa che quel vigile sta sulle strade, mentre ci sono 700 vigili su 5.800, uno su 7, che hanno dei certificati di inabilità a stare sulle strade e stanno magari... ecco. Bene. Questo fa il paio con il pronto soccorso o gli ospedali romani, se non vado errata, di qualche sì, ma anche a Milano è così, ce ne sono molti che hanno i certificati. E anche qui ci saranno quelli che sono abilitati a non essere sulle strade, cioè quelli che veramente hanno, diciamo così, un problema vero che impedisca la funzione sulla strada, e poi c'è la coda. La differenza fra la stella, cometa, cioè il corpo centrale della stella e la coda. Il problema è la coda. Sì. Cioè, tutti quelli che se lo fai tu, allora lo faccio pure io, e questo è impossibile. No, io guardo, c'è, cioè, questi qui, ma bisognerebbe entrare, spesso si usa questa immagine, l'aveva usata una volta anche politicamente Renzi, aveva sbagliato, invece aveva fatto benissimo. Bisogna usare con il lanciafiamme in questi casi, cioè se fossi il comandante dei vigili urbani. Sì. Poi ovviamente ci sono sempre le trattative, i sindacati che si mettono di traverso, quelli che ti dicono, ma io guarda, c'ho il certificato. No, Luca, ma queste cose sono insopportabili. Sono insopportabili, tanto di più sono insopportabili per chi ha diritto davvero. Quelli sono i veri danneggiati, le persone che dovrebbero infuriarsi, perché sono loro, devo dire, i più... Cioè, io ho molta solidarietà e mi fa una rabbia bestiale, e in questo devo dire che i sindacati sbagliano. Totalmente proprio. Tra l'altro, può essere difesa di questo tipo. Anche tu che sei molto british, ma si sa, poi quando vai per le strade di Milano, appena incontri un ghisa, tutta la tua rabbia si sfoga. Pensaci tre volte. Pensa che quello lì che è nel traffico magari deve fare il doppio turno perché c'è l'imboscato nell'ufficio con i certificati falsi. Questa è la verità. Allora, però io voglio andare alle informazioni sul traffico, per l'appunto. Poi, cara Paola, sai che io ti aspettavo, non sto dicendo ti aspettavo al varco, perché la situazione è il tema è molto delicato e so che tu sei sempre molto sensibile giustamente su questo tema, ma quest'ultima vicenda di Messina, di questa Dio ragazza, io ti voglio avere un parere da te, perché qui entriamo veramente nel tutto quel campo di definizioni di amore malato, non so come vengono definite, non è, secondo me, la parola amore in questo caso non c'entra nulla, ma insomma questa ragazza di Messina, alla quale il fidanzato, secondo l'accusa, secondo tutti, ha dato fuoco, e che continua e persiste a dire che non è stato lui, che lui mi ama, e lo difende a spada tratta. Allora, tra poco vorrò sapere la vostra. Brum brum brum, c'è il traffico, Mila. Gli insegnanti, che già sono la categoria che lavora meno di tutti in Italia, fanno anche gli imbrogli per prendere la 104 e fare ancora più giorni di festa di quelli che già normalmente fanno. Che schifo! Il grillo, c'è un bagardillo, non si sa che cazzo lo facendo, e che borda l'italiano, sta scassando le palle da quando si è messo in politica, non si capisce niente. Ma va a scassare i maroni pure all'Europa. Conosciuto e più disprezzato d'Italia, se fosse scemo almeno si capirebbe. Ma adesso è strano di mente, Gaspari, adesso non dite. Veramente, detto da te, io un complimento, sei uno sfigato totale, sì, veramente. Sì, vabbè. Vabbè, stasera siamo tutti io molto signori, vedo. Una normale giornata da Maurizio Belpietro. Come tu, Paola, da te succede? Io mi chiedo sempre quando succedono queste degenerazioni. Una volta ti ho visto combattere, non mi ricordo neanche con chi. Quando parla la politica, sì, è facile, sì, che si vada proprio nella lite. Che ma un giorno fai una bella scena, tipo, va bene, me ne vado, continuate a pigliarvi a pugni e te ne vai. No, guarda che no, guarda che passeresti alla storia. Così, cialtroni e te ne vai, e no, giri no, e te... no, no, no, no, no, no, no, no, no, una no, mamma no, non lascia mai i figli litigare. Si mette sempre in mezzo, bambini. Molto spesso, come dire, poi le prende, ma no, assolutamente. Però sì, a volte c'è una degenerazione. Allora fai così, brava, ti metti in mezzo e dici bambini, buoni, bambini, bambini. Fratellini, credo che lì volerebbero i pezzi dei bambini. Esatto, bambini. Esatto. Comunque ti informerò, ti terrò rigorosamente informato. Allora, dai, voglio parlare di questa cosa, perché questa è molto seria, ma veramente da due o tre giorni mi interrogo su, e qui so che ho due interlocutori che possono aiutare a capire che cosa possa partorire la mente di questa donna, Ilenia, che ancora ieri dice... Alessio Mantineo non c'entra niente su questo fatto, non c'entra, perché lui mi ha amato e mi amerà tuttora per come io lo amo. Lui non c'entra un c***o, non c'entra niente. Non è stato Alessio. Dai, boh. Vabbè. Oh, per carità, poi bisognerà accertare le responsabilità. Luca, partiamo da te, perché poi Paola ce la teniamo lì e vediamo che cosa ci dice. Ma si dice amore malato in questi casi. Sì, non è... è solo malato, non è amore. Però non si può chiedere a lei adesso di accusare. Cioè, è una cosa a cui arriverà. Bisogna che la giustizia faccia il suo corso e ci arriverà anche lei. Ci sono già stati casi di questo tipo dove alla difesa iniziale poi subentra la consapevolezza e la... e il distacco e la rescissione di questo rapporto. Solo che si dice spesso, e giustamente, denunciate, al primo schiaffo denunciate, eccetera, perché adesso ci sono le leggi. Certo, non è sempre poi così facile, poi dopo ci sono anche casi di donne che hanno denunciato inutilmente, nel senso che la persona è tornata a colpire. Però, cara Paola, qui, insomma, anche secondo me non si può mettere la parola amore, neanche no. Dire malato, no. Tutto io sposo, fuori amore. Io sposo la tesi del nostro direttore Luca Dini e dico, primo, salviamo il soldato Ilenia, perché lei è convinta di fare il proprio dovere di donna, virgolette, innamorata in questo momento. Secondo, pensate a questa storia e portatela nel 1960. Lo saprebbe soltanto il suo quartiere, forse avrebbe un trafiletto sul giornale e questa donna continuerebbe, giovane donna, continuerebbe a dire io lo amo e lo amerò per tutta la vita come mi amerà lui. Purtroppo c'è, come dire, la possibilità, tant'è che noi ne stiamo parlando, di mandare questo messaggio ovunque oggi, perché basta un microfono, basta Twitter, basta qualsiasi cosa, il messaggio di Leni arriva ovunque. Questo è il gravissimo danno che ignara lei sta facendo, certo. Attenzione, ignara, ma lei sta facendo, e questo gravissimo danno è giusto che venga commentato, perché si faccia sentire, si faccia capire a donne che si trovano che in è una sbagliato, condizione che è, sbagliato. No, ma è chiaro che è difficile sbagliato. Dirlo in questo momento a questa ragazza che intanto ha subito un grave attacco, no? Perché esatto, è stato ma dato va aiutata fuori. Dalla sua famiglia, va aiutata dai suoi amici, va aiutata da qualcuno che le dica svegliati, guardami negli occhi sì, però, e svegliati. Paola, il contesto anche qualcuno ha scritto culturale, quello che ha portato la madre di questa ragazza a dire sì, lui ogni tanto, vabbè, uno schiaffo ci può stare, ma così no. Perché poi vanno aiutati tutti. È lì il lavoro da cui partire, ma come? Si è sempre detto che appena al primo accenno bisogna denunciare, bisogna dire, e qui passa il messaggio che insomma uno schiaffo si può dare in un momento di rabbia, però certo non arrivare a questo, ma come? No, la risposta è no, la risposta è che non si può dare uno schiaffo, la risposta è che non si può permettere a qualcuno di diventare totalmente, assolutamente padrone della tua esistenza, al punto tale da fare quello che i latini chiamavano ius vitae ac necis, cioè io ho diritto di vita e di morte su di te. Diritto di vita vuol dire che te la faccio vivere in maniera oscena, e diritto di morte vuol dire che il giorno che mi gira arrivo, ti butto addosso la benzina e ti do fuoco, oppure ti strangolo e ti butto addosso la benzina per poi dire che è stato un incidente, che hai avuto un incidente con la macchina. Comunque quello che a me colpisce è mostruoso, è vero come dici tu Luca, che è difficile per questa ragazza magari avere la razionalità adesso di accusare, puntare il dito, però lo dico senza mezzi termini, ma se non lo fa il rischio che poi tra X tempo siamo a parlare di un nuovo femminicidio, come vengono definiti, è concreto, perché non è che le persone si fermano così dicendo no mi ama. Ma io non credo che verrà data molta credibilità a queste parole, cioè non so, però insomma immagino gli inquirenti, non so fino a che punto potranno, cioè insomma. E mi auguro e spero che faranno il loro lavoro e leggeranno dietro queste parole. In ogni caso, perdonatemi, scusa, sì. Alessandro, sul lavoro degli inquirenti non c'è dubbio, direttore, sul lavoro che verrà fatto dalla giustizia non c'è alcun dubbio, sul lavoro che va fatto, perché un'altra donna che è nella stessa condizione di questa Ilenia non vede in queste parole una giustificazione, certo. E attenzione, non stiamo accusando lei, perché lei ora deve lottare contro le ustioni sul corpo e le ustioni dentro, che sono quelle che non guariscono e vanno fatte guarire. Però è importante che qualcuno, girandole intorno, senza rumore mediatico, le faccia capire che è dannosissimo parlare così. È terribilmente dannoso, perché si giustifica chiunque sia, qualsiasi volto abbia, non è lui, è un altro, qualsiasi volto abbia, si giustificano dei criminali. Su questo non c'è dubbio. Tu oggi, Paola, di che parli? Allora, noi partiamo da Obama. Obama, Obama. President. Attenzione, Obama ha detto, beh, adesso non ci sono anche critiche su quello, però sì, Obama ha detto, mi ha molto colpito, lasciando, visto che cos'è il 20 gennaio, tra 9 giorni, l'America è dei giovani. Proprio la stessa cosa che ho pensato dell'Italia, eh? Quando l'ho detto, Luca, questa frase si potrebbe calare proprio sull'Italia. L'America è dei giovani, eh? Ma il mondo è dei giovani a prescindere, anche se loro hanno Trump, che non è né giovane né fuori né dentro, quindi voglio dire, però posso, hanno i loro problemi anche gli americani. Posso dire, ma questa roba, tu che sei anche un uomo che è molto attento all'aspetto, insomma, dello spettacolo, di Hollywood, eccetera, ma anche questa roba di adesso... Guarda che Trump, secondo me, ha ragione quando dice che a furia di andare addosso è Meryl Streep e le critiche a Dolce & Gabbana perché se la Melanie si mette un vestito di Dolce & Gabbana, Andrea Bocelli che non può andare a cantare, quelli del volo, non so se è vero che ha rifiutato, magari è finto, non lo so. Ma non ti sembrano cose assurde queste che fanno poi il gioco di Trump? In parte sì, in parte bisogna anche capire il punto di vista degli americani che non hanno votato Trump e che non hanno nessuna intenzione di, come dicono loro, normalizzarlo, cioè accettarlo. Okay. Cioè, è una situazione del tutto eccezionale questa, io non l'ho mai vista, ma c'è molta gente che dice l'ultima cosa che bisogna fare è dire è il nostro presidente, da domani tutto va bene come prima. Solito, no, non va bene come prima. Perché di solito in America, quindi, si fa così. È sempre stato così, questa volta è diverso. Devo dire molto onestamente che la colpa prima di tutto è di Trump. Quindi, come dire... Ne vedremo delle belle. Trump e di, ovviamente, non avere... E su questo sta lavorando Barack Obama, non aver cresciuto un antagonista ad uno come giusto. Trump all'interno del Partito Democratico, perché sai, Alessandro, l'America è dei giovani, ma il più giovane di tutti lì si chiama Bernie Sanders, ed è un signore che i giovani se li è trascinati dietro. Ovviamente Bernie Sanders per l'uomo medio americano e anche non medio, non è giovane, non salirà mai alla Casa Bianca, però ora si lavorerà e saranno i democratici a dover lavorare su qualcuno di diverso da proporre, e anche i repubblicani, perché se alla fine in tutta questa corsa è uscito fuori Donald Trump, il Partito Repubblicano qualche domanda ce la deve fare. Allora, alle 10 c'è Paola Saluzzi, c'è il numero di Vanity Fair in edicola, come ho detto c'è Michael, per me Michael Fassbender in copertina, comunque abbastanza sexy, devo dire, anche per Paola Saluzzi, no, è già lì, come dire, fuori dall'edicola, a 39 anni. Insomma, uno sguardo che si lascia guardare, cara Paola, te lo dico così. Dai, vi devo salutare, vi mando un abbraccio e ci sentiamo alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. Anquo Alessandro Mina e leggerai i giornali come uno che legge i giornali e che tanti schei 24 mattino. Vabbè, è vero, ma io in cambio do qualcosa, come sapete, questa settimana. È vero, in cambio degli skate, io do, regalo qui biglietti per lo spettacolo Platone che faremo con Leonardo. grazie. Tenetevi gli applausi, spero, per domenica 20:45 al Teatro Manzoni di Milano. Torniamo in scena con Leonardo Manera, con tanti comici. Ci sarà anche Mario Giordano, opinionista d'eccezione, e avremo il nostro opinionista Rom. Sapete che abbiamo Ratko, l'opinionista Rom, ci si diverte molto. Allora, ieri hanno vinto, perché abbiamo deciso così, i biglietti Angelo da Grate Brianza, che sui vigili che non vigilano perché sono imboscati titolerebbe "multerei ma non posso", e poi Antonella da Milano, "vigili orbati". Questi sono i titoli che ci sono piaciuti. Oggi vi darò un'altra notizia, tra poco, quella da Mani sul Volante. Voi dovete semplicemente al 349-238-6666 mandarci il vostro titolo ideale sulla notizia. Tra poco ve la do, eh.